qui a Rock FM, sono le 7 e 30 minuti primi. La nostra astronave è già decollata da una trentina di minuti, ma ne abbiamo ancora un'ora e mezza. E... ciao dall'Ariele, Spadino, Roberto Fricantoni, Isaac Rizzi, la redazione Mister Trombetta. Oggi è la puntata 207 ed è il primo anno di vita di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Iniziamo una nuova fase, una nuova sfida, più dura del solito, fratelli, ma ce la faremo, ce la faremo. Tanti messaggi che sono arrivati, ma io lancio di nuovo la sfida, non prendetemi per pazzo. Voglio che voi ci pensiate, voglio sapere perché, se c'è un motivo oppure no, senza strezzarvi più di tanto. Perché ascoltate Rock FM? Ma non voglio un SMS, perché me ne sono già arrivati una valangata. Voglio che me lo raccontate voi. Anche se qualcuno fa notare, sta storia che andiamo in diretta noi e lo stipendio lo pigli te, non mi è mai andata giù. Hai ragione. Se volete devolgo lo stipendio di marzo, eh? Ce lo spartiamo, volendo. The Ballroom Blades, The Suite, non vi mollo. Ariele, Mick, ok, all right fellas, let's go! Oh, it's been getting so hard living with the things you do to me. Oh, why things are getting so strange. I like to tell you everything I see. Passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was fighting. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, fire on the money. It'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over. When you feel there's nothing left for you. Oh, the man at the back is ready to crack as he raises his eyes to the sky. And the girl in the corner is everyone's bonnet. She could kill you with a wink of her eye. mercoledì 19 di marzo, la vostra colazione rock sarebbe giunta al momento dei compleanni del giorno, immancabile appuntamento con l'almanacco del giorno che fu. Buongiorno maestro. Buongiorno DJ Ariele e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Me la faccia un po' annunciatrice Rai se le viene. Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di pane, burro e rock and roll. Vi ricordiamo che oggi è mercoledì 19 marzo. Esatto. Questa è la rubrica dei nati. Dunque, buon compleanno a Ursula Andress, nata il 19 marzo del 1936. Fate voi il conto perché noi mai riveleremo il numero di anni di una signora. E la ricorderemo in un americano a Roma oppure in un paio di Agente 007, Licenza Bellissimo. Di uccidere e Casino Royale. Proseguiamo con i compleanni. Nasceva un anno dopo Fricantoni nel 1955 Pino Daniele, musicista e cantautore italiano. Buongiorno. Diciamo la non verità, dica... partenopeo, cioè perfetto. Un filo terrone. È iniziato bene, maestro. Diciamo la verità. Buongiorno, esca da questo corpo, maledetto razzista, e proseguiamo con il... Cosa è successo? Niente, ogni tanto la prende buongiorno. Ah, sì. Mi possiede a volte quel malizioso. 1955, lo stesso giorno nasceva anche Bruce Willis, il grande, certo, attore, Die Hard, Pulp Fiction, per ricordarne solo alcuni. E chiudiamo con un suo collega, maestro Antoni. Sì, forse lei si riferisce a Claudio Bisio. Esatto. Attore, cabarettista, cantante, autore, sì. Insomma, il grande Claudio Bisio nacque il 19 marzo del 1957. Tanti auguri a lui e ai genitori. E me, che c'è? Just go. I Rainbow, voglio amarti tutta la notte. Hai capito gli zozzoni? 7:40 minuti primi, quasi 41. Qui c'è sempre l'Ariele, pane, burro e rock and roll. Quest'oggi un anno, il compleanno di PBR, che vogliamo festeggiare chiedendovi perché ascoltate Rock FM. Una piccola annotazione. Io avrei preferito questa domanda farvela tramite una segreteria telefonica, perché è un po' più impersonale. Io capisco che venire in diretta non è una cosa normalissima, non a tutti va di venire in diretta. Una segreteria telefonica vi avrebbe garantito la possibilità, con calma, di telefonarci. Oh, non ce l'ho fatta, ragazzi, io ho un anno che batto cassa per una segreteria telefonica. Gnafo! E per tantissime cose siamo riusciti a croccare, ma per la segreteria telefonica no. Quindi vi chiedo quest'ultimo piacere personale: se vi va, venite a raccontarcelo in diretta. Mentre per festeggiare ulteriormente questo 19 di marzo, Carlo, il tabaccaio milanese, fa notare, signore e signori, che sono usciti 65-38 e 65-83. No, quindi tutti e quattro li ha beccati, Carla. Ah, bisogna sentirla, Carla. Bisogna sentirla. Quattro me li ha beccati, 4 su 4. Intanto do il benvenuto a Marco. Ci sei ancora, Marco? Sì, ci sono, ci e sono. Ti sei anche fermato, perché fino a qualche minuto fa la telefonata di Marco era... A quanto è rilanciato sull'autostrada, Marco? Ah, sulla 10 non si va molto veloce, al massimo 140. Allora, l'idea è, con questa telefonata di Marco, iniziare questa sfilza di chiamate dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici, perché qui siamo curiosi perché ascoltate Rock FM. Oh, senza peli sulla lingua, se vi fa schifo ditelo, non è un grosso problema. Marco è uno di quelli che messaggia spesso e volentieri? Sì, perché sono giusto in ascolto quando voi andate in onda, quindi per ingannare. In che traccia ci becchi? Come? In che traccia ci becchi? Cioè, tu, ti stai spostando tu, da che parte sì, sei? Da Savona a Genova. Da Savona a Genova. Tutte le mattine in autostrada, anche se la ricezione è molto frammentata, non tanto per l'orario quanto per le gallerie. E come fai a resistere, a restare incollato? Allora, aspetta, no, facciamo una presentazione. Quanti anni hai? Io ho 35 anni. E sei di? Sono di Finale Ligure, ma vivo a Savona. Ok, quindi sarai contento delle lezioni del nostro dottor Bonci, che arriva sì, da quella parte lì. Allora, facciamo così. Marco, 35 anni, Finale Ligure. Mi spiega perché ascolta Rock FM. Dunque, tra l'altro io ho iniziato ad ascoltarvi esattamente un anno fa, quando ho cambiato lavoro, perché prima... Anche tu, anche quell'altro. Si vede che portate fortuna. Poi i lavori girano, sì, bisogna stare attenti. E quindi ho iniziato ad ascoltarvi, appunto, praticamente è un anno e qualche mese che vi ascolto. Sì, sì. Rock FM mi piace perché innanzitutto non siete strapieni di pubblicità come tutte le altre radio commerciali. Questo potrebbe essere un male, che dirò. Potrebbe essere un male, visto che al primo temporale il segnale di Genova se ne va, però si sopporta. E perché non buttate su il pezzo dell'ultimo pezzo dell'artista fino a farcelo diventare antipatico, perché lo mettete ogni 30 secondi, questo voi non lo fate, anzi, fate ascoltare musica che tante volte l'ascoltavo quando ero bambino e non sapevo neanche chi fossero i cantanti, e me li ritrovo adesso. E scopri chi sono. E scopro chi sono, vedi Kiss, di cui tante canzoni mi risultano familiari, ma non sapevo assolutamente che fossero le loro. Certo. Facevo i compiti con la radio accesa e sentivo, certo, sentivo questa musica. Fondamentalmente per questo, può essere banale. No, Marco, guarda, va benissimo, apprezzatissima la tua testimonianza, anche perché è la prima, spero, di svariate. Poi vorrei aggiungere ancora una cosa, sì, che comunque voi due come DJ alla mattina fate iniziare bene la giornata, sia perché avete delle belle voci, non siete queruli e fracassoni, ma avrei bisogno di freak per scoprire cosa vuol dire queruli, ma credo sia positivo. Marco, grazie mille, buon proseguimento, arrivami intero al lavoro, e sei stato il primo, grazie, spero di tanti. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Può sembrare semplice, eh? Ma perché ascoltare Rock FM? Magari uno c'ha altre motivazioni. Magari qualcuno mi telefona in questo momento qui, no? Allo 02 6709 132. Intanto Alice in Chains. Cosa? Adesso è il delirio, io l'avevo capito che non si doveva scatenare il delirio, ma perché no poi? Tanto siamo su Rock FM, qui c'è l'Ariele. Inizia una serie di puntate strane nelle quali squillerà il telefono. Perché io ho delle... Io non so se fare quella confessione o non farla. Ma a te, secondo te, se ho da dire una cosa che qualcuno rischia che ci rimane male, la dico o non la dico? Ma non lo so. Non lo sai. Ma a te il nostro... Dipende dalla gravità, cioè... No, è una cosa... Tra l'altro non so nemmeno se la sai tu. Io quasi quasi la dico, o no? Vai, dilla, vai, dilla. La dico in diretta? Vai. Matte, guarda che è una roba forte, eh? Vale. Allora, pane, burro, rock and roll, in quanti siamo in questo studio, secondo te? In tre. Ovvero? Te, io. Ariele, Fricantoni e Spadino. Io devo dire una cosa. Cosa? La dico, Matte, Matte. Dilla, però. Spadino non esiste. Ah. Spadino non è mai esistito. Mi sto facendo regia da solo. E Fricantoni? Fricantoni esiste, ma non è qua adesso. Sono solo soletto in uno studio. L'ho detto! Alla puntata 207. Vabbè, wow. Poi ne parliamo. Ti farti complimenti per la puntata 200. Ah sì, ti era piaciuta? Sì, è stato adesso arriverà una scarica di insulti. Vabbè, Matte, occupiamoci di una cosa. L'altra sera a Firenze, alla FLOG, sì? Ho conosciuto il tipo delle sale prove Play Loud, quelle dove sì. Vai tu a fare le prove. Esatto. E gli ho detto, ma senti, ma se noi ogni tanto mandiamo in onda Matte e diciamo che viene a suonare alle sale prove Play Loud di Firenze, perché non gli fai uno sconticino? E lui che t'ha detto? E lui faceva tutto un po' così, dai, perché no? Perché tu, Matte, vai a provare oggi? Io sì, vado a provare. Ma dove? Alla Play Loud. Ah. Bellissima sarà proprio. Ah, bellissima? Ti trovi bene? Che ruffianaccio, guarda. Comunque fa benissimo per la carriera davvero rocker. Ruffianino va bene. Va molto bene. Va molto bene. Non troppo, però. Matte, quindi hai le prove oggi. Posso chiedere anche a te perché ascolti Rock FM? Certo. Ascolto perché, come aveva detto l'altro... Ci sono poi pubblicità, cioè non c'è punta pubblicità. Cioè, però questo, ragazzi, non mi fa piacere. Lo so, però ascolti la musica così tranquillo, non stai a sentire tre ore lì che ti mettono te le varie pubblicità. Sì, beh, quello poi, effettivamente. E poi potrebbe essere una formula vincente per gli altri network. Infatti, poi simpatico, simpatici e mandare della musica bella. E non so. E poi altro. Poi altro che. Che vedremo. Matte, vai a scuola che mi entri in ritardo e ci sentiamo presto, spero. Va bene, ciao. Ciao caro. Ci sento, ciao. Oh, ho detto che Spadino non esiste, Uma. Same. puntata bizzarra quella di quest'oggi, come d'altra parte le 207 puntate che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in questo 19 marzo 2008, l'anno della svolta, forse ancora di più. Ringrazio chi mi sta chiamando allo 0267 09 132, però avendo detto che non c'è Spadino vuol dire che sono in studio da solo e il telefono squilla lì, quindi alla vecchia l'ho staccato un attimo. Vi chiedevo quest'oggi perché ascoltate Rock FM, un tarlo che ho in testa da un po' di tempo, che con calma vorrei, l'obiettivo sarebbe, io vorrei mandarvi in onda tutti singolarmente, questo è l'obiettivo, vediamo cosa combineremo da qua alle prossime puntate. Intanto ho Carlo che mi arriva da Bergamo, 30. Claudio. 40... Claudio. Cosa, come ti ho chiamato, Claudio? Carlo. Scusami, perché c'ho la baza dei numeri dell'otto, quella roba lì. L'ho anche scritto. Claudio, 44 anni, Bergamo, ma mi lavoro a Milano. Cosa fai? Sì, sono un sottufficiale dell'esercito. Aia. Ma dici che abbiamo detto qualcosa di male ogni tanto? Ma io non ci faccio caso. Esatto, per fortuna. Non ci faccio caso perché voi trasmettete musica rock, sì, che per me è tutto, è emozione, è sensazione, è carica, qualsiasi cosa insomma mi dà la musica rock. Quindi è questo il motivo? Non potrei sentire altra musica, sinceramente. Chissà cos'ha sto rock che ci piglia tutti quanti, eh? Non lo so, io, vabbè, i miei preferiti sono i vecchi di Purple, quella gente lì insomma, certo, che ascolto sempre. Seguo sempre, mi vado a vedere ogni tanto qualche concertino quando arrivano a Milano. Certo. I vecchietti qua che però danno la paga a parecchia certo, gente. Sai, è strano, in questo periodo dove si parla di questa grandissima crisi della musica, della discografia e quant'altro, sembra che invece noi siamo proprio malati. Cioè, a noi proprio ci piace. Sì, sì, non c'è niente da fare. Senti, e lì nel tuo ambiente lavorativo mi confessavi che in tanti smanettano Rock FM, eh? Sì, beh, adesso Rock FM non lo so, però rock lo seguono, non sono certo, l'unico, insomma. Certo, immagino. Non sono l'unico. Il rock è per tutti, si diceva una volta, sì, però. Sì, sì, Rock sì, FM. Ma io seguivo Marco Garavelli quando faceva Linea Rock. Certo. Da lì. Certo. Poi un ragazzo che era sotto le mie dipendenze, diciamo, sì, un giorno mi fa, ma guardi che c'è una radio nuova, adesso non mi ricordo quanti, 99, sì. Sì, quegli anni lì, o anche prima, adesso non me lo ricordo, cioè, fanno rock ma veramente troppo bello, e infatti da quel giorno sono sintonizzato su Rock FM e... per me basterebbe una radio con quella frequenza, basta. Claudio, sei stato gentilissimo e ci hai spiegato perché ascolti Rock FM. Va bene. A presto, grazie. Grazie a voi.